Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Buona domenica. Buongiorno. Oramai aprile, dolce dormire. Dolce dormire, davvero. Anche se io in realtà dormo meglio d'inverno perché soffro il freddo. E dico sempre che vorrei, finita l'autunno, andare in letargo e risvegliarmi alla fine dell'inverno. Però non me lo fanno fare. Allora amici, restate con noi oggi perché parleremo di tante cose, tra cui vivisezione, quanto le persone che si occupano degli animali effettivamente si occupano anche delle persone, perché sono argomenti che, sì, che sollevano normalmente le persone che sono contro, no, gli animalisti. Parleremo con Veronica Pivetti del suo amore per gli animali. Parleremo anche, e magari cominciamo anche subito a scambiare sì, due chiacchiere, perché ce l'abbiamo qui ospite con noi, ci fa molto piacere, con la dottoressa Mara Di Noia, che è un'esperta di alimentazione, attenzione, vegana per i cani. No, non solo, dalle persone. Però... Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono un medico veterinario. Ecco, questo è... Allora, diciamo... non tradizionale, nel senso che mi sono laureata in sanità pubblica, quindi in controllo ispettivo degli alimenti di origine animale, sì, e ho subito, ero scioccata di quello che vedevo, perché mi ero iscritta a medicina veterinaria per amore puro, mm-hmm, per tutti gli animali. E mi sono ritrovata a pochi mesi dalla mia laurea chiedendomi cosa stavo facendo. Sì. E vivevo una situazione di disadattamento grave, quindi vivevo una situazione. Cioè, a un certo punto ti sei chiesta dove è finito l'amore. Dove è finito l'amore? L'amore per gli dove animali, dov'è in questa facoltà? Già, tu eri già vegana? No, io avevo una idiosincrasia proprio forte nei confronti della carne di maiale e dei salumi che io non ho mai digerito, neanche da bambina, per cui in quegli anni cercavo di evitarla perché stavo sempre male e iniziavo a farmi delle domande. Quindi a pochi mesi dalla mia laurea, che è la storia un po' che io racconto nel mio libro, decido di cambiare tesi, sì, e il professore che mi seguiva, che non c'è più, il professor Renon, che io ho amato tantissimo, mi disse: ma tu sei pazza, hai lavorato 2 anni a questa tesi e cosa facciamo? E, e io ho regalato questa tesi all'istituto e ho fatto in 3-4 settimane una tesi compilativa orrenda perché non mi riconoscevo più in quella situazione, ma non è stato un bel periodo. Una bella evoluzione però. Sì, certo, diciamo che è stato un balzo, proprio un salto quantico. Hai seguito comunque il cuore fino in fondo. Sì, ho seguito il cuore come faccio l'istinto, sempre. L'istinto, fai bene. Poi ognuno poi si prende le proprie responsabilità, sì, certo, no? E quindi da lì ho iniziato a farmi delle ulteriori domande su che cos'era per me il cibo e a valutare che non riuscivo più a vedere l'animale come cibo. Quindi ho smesso di mangiare carne, ho mangiato pesce per tanti anni, per un problema di salute importante, un'asma piuttosto seria. Ho tolto il latte e i formaggi, tutti i latticini, tutti i latticini in 3 mesi, guarendo da questa cioè togliendo i farmaci che io prendevo a uso cronico, che erano 3-4 a seconda dei per periodi. L'asma? Per l'asma e per le allergie. Io a 32 anni ero rovinata di farmaci, di cortisone. E quindi guarisco da questa situazione non credendoci assolutamente, quindi facendo una prova su di me. E da lì, quindi parliamo del 2003-2004, mi è cambiata letteralmente la vita. Beh, certo. E la visione, perché togliere un alimento dalla nostra alimentazione ci toglie come un paio di occhiali, quindi vediamo il mondo in modo differente. Da lì ho iniziato a studiare l'alimento vegetale per capire di più e mi sono poi diplomata in terapia alimentare, quindi è una sorta di nutrizionista veg. Ecco, quindi, Ma in campo umano o in campo animale? In campo umano, che io con i miei studi applico anche in campo animale. Animale, beh, essendo anche essendo veterinaria. Veterinaria, esatto. Essendo una veterinaria. E finché il mio, dicevo a Rosita, finché il mio ordine professionale di Milano me lo consente, parlo. No, ma allora intanto non potevamo avere ospite migliore, devo dire, in questa trasmissione, cioè che così diamo anche di che parlare alle altre trasmissioni radiofoniche. No, ma non ovviamente. È quello, cioè bisogna rendersi conto che quando si tratta di fare scelte vegane o cose del genere abbiamo a che fare, per la maggior parte delle volte, con persone con tanto cervello, con tanta intelligenza, mentre gli estremisti o quelli che insomma non ce l'hanno. Ci sono anche, come in ogni gruppo sociale ci sono anche quelli che magari esagerano. Quelli numerosi ci sono. È un vuoto a perdere. Però sai, ascoltare solo quelli che sono un po' estremisti, un po' fuori di testa, e poi dire tutta la categoria è così, fa gioco. Allora, se volete parlare davvero con chi di alimentazione vegana si intende, eccetera, oggi abbiamo la dottoressa Di Noia. No, infatti, che poi voglio dire, almeno uno dice, non è che tu ti sei improvvisata, no. Hai studiato, cioè ti sei preparata, hai studiato, sì. Quindi questo è fondamentale, questo. Poi mi piace molto il tuo approccio, molto gentile, delicato, per nulla aggressivo, e ci dispiace quando purtroppo vengono cercati e menzionati sempre un po' gli estremisti, no? Gli animalisti, certo. Estremisti, i vegani. Che vengono, cioè che non è così. Fa parte forse di un vecchio modo di essere, mm-hmm. penso. Oppure servono per far parlare. Sì, però penso che siamo in tanti che ormai, diciamo, vediamo la vita in un modo differente, e anche le scelte alimentari fanno parte di una cultura di pace. Ma sai, ma poi quando cambia il mercato, anche quelli che non ci credono sono obbligati a cambiare se vogliono continuare. Ma non è tanto, guarda, io non la vedo come un braccio di ferro o una guerra. Secondo me la questione è questa: vuoi una cultura di pace, vuoi un'economia che funzioni, vuoi dei politici che pensano a tutto tondo con una visione da qui a 7 generazioni, come dicevano gli anni d'America, piuttosto che da qui a 5 anni, la speranza che 5 anni dura un governo. Ecco, allora non puoi non considerare la questione animale così seriamente. Bene, certo. Adesso allora ascoltiamo un attimo il traffico, mare, subito dopo continuiamo le nostre chiacchiere. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ed è con grandissimo entusiasmo, felicità, che oggi vi introduco un personaggio che a me piace tantissimo, e si chiama Veronica Pivetti. Buongiorno. C'era sta sigla, io non me l'aspettavo. Effetto sorpresa, qua. Ma che è stupendo, stupendo. Ciao a tutti, ciao a voi naturalmente, grazie per avermi cercata, trovata, grazie per fare questa chiacchierata che... Comunque dal punto di vista del cane io già sono, appoggio tutto quello che direte. Guarda, ringraziamo noi te, perché non basta mai, secondo me, sentire voci che arrivano da ogni parte, da ogni dove, che raccontano appunto quanto possono fare i cani in questo caso, ma gli animali in genere, per il nostro benessere fisico e psicologico. Sono assolutamente d'accordo, infatti, cioè, questa è stata... sono serviti molto. È stata una intervista fortemente voluta, soprattutto da Rosita. Lei si era impuntata, era qualche mese forse che diceva no, dobbiamo intervistare a Pivetti, perché lei... Poi pare che la gente si fidi della tua opinione, insomma, ti reputa non soltanto una brava attrice, attendibile. Ma... sì. Cosa gravissima. No, non è vero. Una responsabilità spaventosa. Vabbè. No, mi fa molto piacere invece, perché io devo dire col pubblico ho un rapporto molto bello, di grande affetto, spero di grande stima, nel senso sicuro. Che io ho grande stima del pubblico, spero che il pubblico ci arrabbi di me, però di grande affetto, guarda, proprio grande tenerezza, scomodare un termine così. No, ma te lo meriti, perché sai che noi comunichiamo col corpo come comunicano gli animali, solo che non ce l'hanno spiegato bene. Senti, ma da dove nasce, da quando, il tuo rapporto con il cane, con i cani, perché poi tu ne hai avuto più di uno? Allora, nasce da lontanissimo, perché io avevo 6 anni quando mia mamma mi ha portato a casa il primo cane della mia vita, che poi purtroppo è morto di cimurro, quindi succedono queste cose, cagnolini piccoli. Naturalmente abbiamo messo subito una pezza, nel senso che ha detto no, per carità, questa impazzisce per i cani, e vi dirò, sai quando me l'ha portato? Quando io, siccome rompevo, non dico cosa, ma dirò le scatole, voglio il cane, un giorno mi sono appena sveglia la mattina e ho detto mamma, stanotte ho sognato 100 cani, no. E mi ha capito che non si poteva più tergiversare, quindi mi ha portato il cane. Dopodiché questo cagnolino, purtroppo sfortunato, è morto, ne è arrivato subito un altro, preso dal meccanico. È un po' strano, sì. E poi si sembrava proprio preso dal meccanico, perché era un assemblaggio veramente curioso di razze. Sì, però gliel'avevano mollato lì, ha detto guarda, mi hanno mandato sto cucciolo, testuali parole, se non lo vuole lo butto via. Oh, e mi ha detto no, scusi, me lo dì immediatamente. No, questa cosa a casa. Questa cosa dei cani dei meccanici, non è la, cioè, ci sono dei meccanici che hanno lì il cane, non è la loro officina che sta lì, passa lì tutta la vita. Invece questa volta questo qui ha detto no. Questo qui in realtà probabilmente era un trovatello che gli è arrivato lì, gli è stato mollata, e cose che succedono tremende. Allora mia mamma ha detto, per carità me lo dia subito. È stato con noi 11 anni, si chiamava Yorick, ed è stato, adesso dirò una cosa che sembra triste, ma in realtà è anche molto bella, quando poi è morto dopo 11 anni, purtroppo ovviamente, eravamo in un'isoletta vicino a Venezia ed è stato seppellito lì. In un'isoletta meravigliosa, e quindi insomma lui sta ancora in un posto bellissimo, molto più bello di quelli dove siamo noi spesso e volentieri, e quindi è stato, dopodiché c'è stato un altro cagnolino, e poi c'è stato un lungo periodo dove io non ho avuto cani, e poi ho avuto il mio cane storico, che faccio fatica a parlarne perché purtroppo è morto a novembre, dopo 15 anni e mezzo. Vedi che ti accompagnano per noi. Sì. Cioè... Beh, vabbè, lì è stata una cosa, diciamo, sicuramente l'unico uomo della mia vita. E niente, per cui era un barboncino toy, si chiamava Arpo, e abbiamo fatto insieme 15 anni e mezzo, e io non so se ne potrò parlare ancora, perché mi dispero ancora. No, allora non ti facciamo parlare di lui, ma però, guardati, insomma, guardati. No, mi sembra anche giusto, perché poi purtroppo è un fatto della vita. E io sto vivendo questo lutto, perché di questo si parla, certo. Ma vero e proprio, però insomma io sono talmente grata per quello che è stato che... Sì, ma poi vedi, la domanda a me nasce spontanea, quindi eri piccola, da quello che ho capito, vivevi ancora con i tuoi genitori quando hai chiesto il primo cane, quel cane è morto vicino al muro, poi ne avevi levato un altro per ben 11 anni, adesso questo, ma cosa ti hanno insegnato gli animali in queste relazioni con loro? Ma guarda, credo quello che io sono adesso, nel bene, sicuramente non nel male, perché il male ce l'avrò messo io, ma nel bene... ti insegnano tantissimo, ti insegnano intanto una cosa fondamentale, che è di responsabilità, cioè di prenderti cura di qualcuno. Sì, certo. E questo è fondamentale, perché il disimpegno è sempre, secondo me, padre o figlio di qualcosa di brutto. Invece sei obbligato a occuparti di qualcosa. Anche perché il cane rimane sempre tutta la vita come se fosse un bambino di 3 anni, no? Ha necessità di essere accudito sempre. Esatto, per cui quella è una grandissima responsabilità. E poi vabbè, e poi c'è tutto l'aspetto di amore, di divertimento. Io le risate che ho fatto con i miei animali e che faccio tuttora, perché io poi ne avevo due, quindi ce n'è un altro che è rimasto. Sono la socia, la persona con cui lavoro ne aveva altri due, purtroppo ne è mancato uno, ma siamo sempre una sorta di comune, viviamo come una comune, scambio di cani, io ti tengo tutto, cioè tutto così, ovviamente. Sì, sì. Ed è il divertimento ho provato con loro, non con nessuno, ma veramente con nessuno. E poi la bontà, sai, quando tu hai di fianco una persona buona sei più contento che se hai di fianco una persona cattiva, e il cane è una persona buona. Sì, è vero, è giusto, è la una parola. Persona. Esatto, infatti quello sto dicendo, è giusto, sai, usare il termine persona, l'ho imparato stando col dottor Vaira. Noi ne abbiamo parlato tante volte, ci sono gli etologi cognitivi oggi che dicono non c'è nessuna ragione per cui non possiamo definire i mammiferi persone, perché hanno una ricca vita emozionale, perché pensano, hanno una cognizione profonda e quindi hanno una personalità, no? Come noi diciamo il cane, quel cane è timido, quel cane. Quindi se hanno una personalità possiamo a tutti gli effetti chiamarli persone. E penso ci sono state anche delle sentenze che hanno decretato come alcuni animali, per esempio un orangutan in Argentina, siano delle persone non umane. Meraviglioso. Io invece conosco un sacco di persone non umane che sono meravigliose, che sono molto peggio dell'orangutan. Sì, esatto. No, esatto. È bella questa cosa qua del prendersi cura, che gli animali ti insegnano a prendere cura, perché oggi va un po' di moda il fatto di dire ma che me importa, ma cosa me ne frega, ma chi se ne frega. Ormai ti si rompe un cellulare da 700 euro, dice, lo riparo, no va bene, prendo un altro. Questo adesso non voglio fare la parruccona rompipalle, per carità, però abbiamo talmente l'abitudine a buttare quello che non ci serve più. Non ti serve. Ecco, invece io oltretutto, non voglio essere triste, ma insomma il mio cane è morto dopo un anno in cui non riusciva più a camminare bene, e dopo gli ultimi mesi sono stati terribili per lui, oltretutto un cane di una vivacità che era una scheggia, una molla praticamente, e quindi vivi il tuo cane, che è sempre stato un sostegno, poi in realtà un sostegno emotivo enorme, ma poi un compagno, abbiamo fatto qualunque cosa insieme, cioè proprio bello, bello, il gran divertimento, il gran piacere di stare con lui, e vivi il suo decadimento fisico. E questa è una cosa che ovviamente, insomma, chiunque ci passa anche con la propria madre, il proprio padre, per carità, con le persone più anziane, no? Però è importantissimo anche quello, anche per me, che poi è finita purtroppo appunto con la sua morte ed era inevitabile, però è stato importantissimo occuparsene veramente, che non è dargli la pappa e portarla a fare la pipì, è molto di più. Certo, è il fatto di osservarli, di ascoltarli, certo, di vedere di che cosa... Di accettare che lui non funzioni più come prima, cosa sì, che succede sì. anche a me col mio corpo. Tieni presente che loro a noi ci accettano grasse, magre, nere, bianche, certo, vecchie, giovani, amore ricche, povere, quindi... esatto, e quindi è una cosa importantissima, è stato un percorso, è stato veramente un grandissimo percorso d'amore che io veramente, il dolore per la perdita è mostruoso. Sì, guarda, io ti capisco, ma ne vale la pena, assolutamente, ne vale la pena, perché quello che ti danno è talmente tanto di più. Tra l'altro leggevamo una ricerca fatta qualche domenica fa, diceva che spesso si prova più dolore per la perdita degli animali e dei bambini anche rispetto agli adulti, perché pare che ci sia una correlazione tra la perdita e l'innocenza dell'essere che certo, ormai non c'è più, cioè più è innocente, più effettivamente c'è questo struggimento. Io voglio ricordare che tu hai scritto un libro quando sei uscita dalla tua depressione, mi sembra che si chiamasse Ho smesso di piangere. Bello, esatto, sì. Mi ricordo che era per Mondadori, e Ho smesso di piangere. E tu, il tuo cane ha giocato un ruolo in questa tua depressione? Perché guarda, moltissimo. Io infatti ho dedicato svariati capitoli a lui e poi all'altro che è arrivato, perché nel periodo della depressione io, tanto per rallegrarmi, sono andata in canile e ne ho preso un altro. Beh, sei grande. Guarda, un grande cuore però, è un grande cuore, grande forza, grande coraggio. Ci sono tante... Non lo so, io senza cani non potrei vivere. E quindi infatti, ti capisco. Uno si attrezza. Cioè, poi voglio dire, è una fatica, perché poi con sto mestiere devi andare in giro, non ti accettano quasi da nessuna parte, per cui è un macello. Adesso sta migliorando un po', adesso sta sì, un po' migliorando. Sì. Si sta cambiando il mondo, perché... Sì, sì, diciamo di sì, però insomma secondo me bisognerebbe fare molto di più. Ancora perché, tanto. Anzi, è notizia credo recente, non vorrei dire una cavolata, ma ho saputo che mi pare la Delta, la compagnia aerea, adesso accetta i cani in cabina. Ma è una cosa pare recentissima, perché sennò ti mettono nella stiva. Ma tu parli di cani, ma guarda che io che ho sempre cani, adesso per esempio ne ho presi due piccoli proprio per potermeli portare sempre in giro, fino a 10 kg in cabina si possono portare, oltre 10 kg purtroppo no. Tu intendi che la Delta fa portare anche i cani grandi in cabina? Mi sembra di aver sentito una roba del genere. Mannaggia, ma era, t'hanno fregato l'idea. Approfondiamo, ma la mia è un'altra. No, non lo so, adesso magari sto dicendo una cavolata e invece dice mamma informati, me l'hanno detto l'altro giorno, ho detto non ci posso credere, a parte che il discorso dei cani piccoli in cabina si potevano portare, ma poi hanno ristretto molto anche quello, perché per esempio nei voli intercontinentali, cioè quando vai veramente lontano, ti puoi portare una cassettina invisibile, per cui poi ci sta un cane di 2 kg, già il mio che pesava 5 kg non ci poteva stare, poi insomma per 8 ore, 9 ore, 10 ore comincia a diventare complicato naturalmente. Senti, adesso ci informeremo su questo. Bene, senti, intanto noi ti ringraziamo e siamo felicissimi di aver fatto questa chiacchiera con te. Ti dico solo una cosa, noi abbiamo parlato una volta con Andrea Contri che fa telepatia con gli animali. Non so se ne hai sentito parlare. No. Magari a te potrebbe piacere poter fare una chiacchiera con lui e capire, perché è un'esperienza veramente particolare e meravigliosa, ovviamente. Si sta parlando di una cosa seria, non di una... No, ci credo, non vorrei essere presuntuosa, ma secondo me io già la faccio. Però vabbè, sicuramente, ma certo, ci credo. Infatti quello che ci dicono molti radioascoltatori è, ma sai che a volte io ho il dubbio effettivamente che il mio cane mi capisca al di là di quello che gli comunica col corpo e con le parole, quindi... Solleva degli interrogativi. Grazie Andrea. Veronica, di aver fatto questa chiacchiera con noi. Ma dove ti possiamo vedere? A teatro, in televisione? A teatro mi farebbe piacere dir di sì, ma ho finito la tournée una settimana fa, per cui mi dispiace. Poi invece, vabbè, adesso inizierò ovviamente, fra qualche mese, la settima serie della prof. Sto scrivendo il secondo libro, per cui anche quello. Sì, un po' di... E poi sto portando in giro il mio film. Io ho fatto un film da regista che sto portando in giro in Italia. Però insomma un po' di roba c'è. Come, benissimo. Come si intitola il tuo film? né Giulietta né Romeo. Ah, né Giulietta, né Giulietta né Romeo. Senti, teniamoci in contatto ora che ci abbiamo i numeri. Un abbraccio fortissimo, grazie. Grazie a voi e a tutti quelli che ascoltano. Ciao, ciao, ciao Veronica, ciao, Veronica, grazie. Ciao. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, un'ora 90 e mezza. Minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. Si sente. E a tutti convocati weekend, ci sono anch'io, sono Giovanni Capuano, vi aspetto ogni domenica alle 17. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Allora, oggi puntatona, io sono felicissima perché abbiamo qui con noi Mara Di Noia, che è nutrizionista vegana, anche poi dopo parleremo bene di che cosa possono mangiare anche i cani, che sembra che possano mangiare anche loro, mangiare vegano. Ma adesso abbiamo in linea una persona, come si può dire, molto, molto interessante, ma abbiamo... prima di introdurlo vorrei che Angelo tu leggessi due righe di una lettera che ha scritto Oscar, di una lettera di due righe che ha scritto Oscar Grazioli. Oscar Grazioli, sì, quindi prima di introdurre il nostro criminologo, tra poco sentirete delle belle, vi leggo cosa scrive Oscar Grazioli su GaiaItalia.it. Oscar Grazioli, ricorda, è un giornalista e veterinario e dice questo: quello che ho visto mi sveglia ancora di notte sudato. I cercopitechi schiacciati dalla parete mobile di lamiera contro le sbarre che perdevano bava e urina e schizzavano feci ovunque per il terrore. Uno aveva la testa rivolta verso di me e l'occhio ricadeva dall'orbita mentre le urla perforavano i timpani. Tanto ne hai per poco, il commento dell'addetto. Dopo un'ora era sul tavolo accanto a un macaco cui dovevano togliere i reni. Dopo l'incisione sull'addome gettava fuori le viscere dal corpo, l'anestesia era un po' superficiale. Amen. Passavi tra le gabbie dei resi e se acuivi l'olfatto potevi sentire nell'oscurità il profumo del terrore. Non serviva acuire l'udito per sentire i gemiti di chi era tenuto in vita perché l'esperimento lo richiedeva. Una volta uscito all'aria ho vomitato. Tutto questo si verifica ancora in tutto il mondo e la ragione umanitaria per cui questi sacrifici sono necessari, tra virgolette, rappresenta la più tragica balla che vi hanno mai raccontato. Quindi quando si parla di vivisezione o non vivisezione, è bene che si tenga a mente quello che si fa agli animali, vivono nel terrore. Allora, con noi per parlare di vivisezione c'è Massimo Tettamanti. Massimo Tettamanti è un criminologo ed è fondatore dell'Associazione Italiana di Supporto Vittimologico. Massimo, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Adesso, ciao Massimo, hai sentito? Tanto per chiarire che chi si batte per gli animali si batte anche per gli esseri umani. Eh beh sì, è automatico, nel senso che l'approccio moderno anche al volontariato non tende più a distinguere le classi di vittime, ma ha un appoggio scientifico di specie o di razza o di quello che volete, ma è un approccio molto spesso basato su professionalità scientifiche, professionalità giuridiche e su una visione diversa dove tendenzialmente non si può aiutare solo qualcuno e lasciare gli altri in difficoltà. Quindi anche se ciascuno si può specializzare in un ambito specifico, l'approccio che utilizziamo è quello di proteggere tutti nel modo migliore. Sì, certo. Coerenza vuole, no? Se sei contro la violenza, sei contro la violenza contro chiunque. È una questione di coerenza, certo. Certo. Sì. Chi è attivo per difendere gli animali automaticamente sarà attivo o comunque a favore di tutelare la specie umana, che è la specie sua di appartenenza. Viceversa non sempre così, chi è attivo a tutelare l'uomo alcune volte magari si limita a questa specie, ma l'approccio più moderno, anche ecosistemico per quanto riguarda lo stato del pianeta, ma per quanto riguarda la ricerca scientifica, la sperimentazione su animali. Senti, Massimo, è molto più multidisciplinare. Prima di addentrarci proprio nel vivo della vivisezione, abbiamo parlato di questa associazione, l'Associazione Italiana di Supporto Vittimologico. Di che cosa si occupa, molto brevemente? Allora, io ho creato e fondato questa associazione che in Italia mancava, per avere un referente anche in Italia di un network europeo che si chiama Victim Support Europe, che è il network che si occupa di donne e bambine vittime di abusi. Ok, quindi se ci state ascoltando... In Italia ci sono tante associazioni, ma ne mancava una che avesse un collegamento europeo, come per casi come quello recente di Bruxelles, dove serve coordinarsi non solo a livello nazionale ma internazionale. Certo. Questo è il mio volontariato relativo appunto alle vittime di abusi, soprattutto donne e bambini statisticamente. Senti Massimo, tu ci hai detto che sei in viaggio, stai facendo un viaggio e hai con te chi stai portando e dove? Allora, io in questo momento preciso, e mi scuso se la qualità del suono è un po' pessima. No, ma si sente abbastanza bene. Bene, bene. Sono in macchina, ho una macchina piena di conigli, conigli che ho portato fuori da un laboratorio di sperimentazione, perché nelle varie attività di volontariato che abbiamo è quella di, una è quella di promuovere la ricerca scientifica tecnologicamente avanzata che non fa uso di animali. Di conseguenza portiamo delle alternative al ricercatore quando riusciamo a convincerlo, oltre a permettere un miglioramento della ricerca scientifica a favore dei malati, a favore della salute pubblica, mi faccio dare gli animali che sono presenti in stabulario, che a quel punto per loro non sono più di utilità, e li portiamo in centri specializzati. In questo momento sto andando in uno splendido centro di recupero fauna vicino a Gorizia, sì, che li ospiterà e che ha già creato degli habitat seminaturali per procedere alla loro riabilitazione e poi al mantenimento in un habitat, diciamo così, senti, seminaturale. Ecco, senti, non... Massimo, c'è un dilemma che attanaglia chiunque, sì, prende in considerazione seriamente, o anche così, no, la questione della vivisezione. Non è che se togliamo la vivisezione... Non riusciamo a curarci? A dire la verità, io mi aspetto esattamente il contrario. Faccio un esempio. Un secolo fa, quando bisognava studiare il sistema cardiocircolatorio, quando bisognava studiare come funzionavano i polmoni, il fatto di usare degli altri mammiferi poteva forse avere un senso scientifico. Non entro in un discorso etico, perché io ho un approccio etico molto forte, però diciamo, almeno scientificamente un senso poteva averlo. Nel mondo moderno non si studia più così, nel mondo moderno si parla di chimica fisica, si chiama di nanoparticelle, si parla neanche di un sistema di un organo, ma dello specifico settore, della specifica cellula che interagisce con la sostanza tossica. Quindi le differenze fra specie ormai sono enormi, addirittura ormai si deve parlare di medicina personalizzata, perché non tutti gli uomini reagiscono allo stesso modo e di genere allo stesso agente tossico. Esatto. Ma per quale motivo allora, scusami, per quale motivo continuano a giustificare il fatto di fare sperimentazione sugli animali? Allora, diversi motivi. Uno è un fattore culturale. Noi teniamo dei corsi sui metodi alternativi in alcune università che ci ospitano, e vediamo che sono molto spesso i giovani ricercatori e i neolaureati, i dottorandi di ricerca, che sono affascinati dalle tecnologie più avanzate. Molto spesso il docente, magari di qualche generazione fa, è ancora legato al modello animale, proprio culturalmente, sempre quello ha fatto, e magari un docente che non sa neanche aprire e mandare una mail, figuriamoci se dobbiamo parlare di organo nacipo, di bioreattori tecnologicamente avanzati. Che fra l'altro, scusami, costa anche di più continuare a fare la sperimentazione sugli animali? Costa di più, ma è statisticamente quello che viene usato, perché è quello che viene finanziato dallo Stato, dai nostri soldi. Lo Stato tende a finanziare quello che conosce, andando contro un principio della ricerca scientifica che si dovrebbe finanziare quello che è nuovo, è innovativo, è avanzato. È così. La sperimentazione animale o vivisezione nasce insieme al telegrafo. Ah, figurati. Quindi capite che... Però dal telegrafo ai cellulari abbiamo fatto passi avanti. Com'è che sulla pelle di povere anime invece si rimane fermi al telegrafo? A me questo mi fa incazzare. Diciamo così, in questo momento la sperimentazione sugli animali viene usata anche per motivi legali, dove si sperimenta su un animale una sostanza prima di metterla nell'ambiente o darla all'uomo. Ora vi spiego il trucchetto. Se l'animale sta bene, la sostanza viene immessa nell'ambiente o viene sperimentato sul volontario sano. sano, sì, e poi sul paziente in clinica nel caso dei farmaci. Sì. La cosa che diventa surreale e tragicomica, diciamo così, è che se l'animale sta male, sviluppa tumori, comunque la si può immettere nell'ambiente e comunque si può passare al volontario sano, in quanto non è detto che possa avere lo stesso effetto, anzi è probabile che specie animali diverse risponderanno in maniera diversa. È assurdo, bellissimo. C'è una contraddizione, ma qua ci pigliano per il culo in tutti, sotto tutti i profili. Fermi. Tutti. Scientificamente è una contraddizione, economicamente è un metodo fantastico per commercializzare qualsiasi cosa. Appunto, dico, sì, ci prendono per il culo sotto tutti i profili. Sotto, sì. Esatto, se usassero dei bioreattori in serie di organi umani con un sistema di microfluido dinamica che collega gli organi, organoidi ovviamente, senza avere né l'animale né l'uomo come cavia, avremmo una risposta molto più precisa per l'uomo. Ma qual è il problema? Che se questa risposta dice che la sostanza è cancerogena, è tossica, logica vuole che questa sostanza dovrebbe essere vietata, dovrebbe esserne vietata la commercializzazione e l'emissione in ambiente. E invece, quindi io la contraddizione la leggo così, no? Cioè sperimentiamo un farmaco sull'animale perché così voglio studiare gli effetti sull'uomo. Però se sull'animale ti dà un tumore, io te la do comunque a te, essere così umano, perché tumore, tanto siete specie diverse, non conta la correlazione. E comunque se ti viene un tumore io continuo a guadagnare perché poi ti devo curare, giusto? Forse c'era corretto. Capito il principio perfettamente. Senti, c'è Mara di Noia che voleva intervenire. No, volevo così, sono felicissima di conoscerti anche se al telefono. E no, una considerazione che nonostante tutto questo dispendio di animali, di tecnologie, abbiamo la società più malata di mai. Uh-huh. E quindi ecco una domanda, una riflessione che sicuramente va fatta anche in ambito di medicina umana. Che è arrivata al bivio, come anche la medicina veterinaria è arrivata a un bivio, cioè dobbiamo scegliere la strada, perché questo metodo è palesemente non in grado di far fronte abbiamo capito con quello che ci sta dicendo Massimo che non gliene può fregare di meno, perché così ci pigliano doppiamente per il culo, scusate il termine. Però parlare serve sempre, sì, le persone sicuro, conoscono, certo, si informano, conoscono e siamo in un non un soltanto momento in di passaggio. Secondo me in un momento di cambiamento epocale. Cioè sì, io sì, questo lo percepisco. Sì, ci credo anch'io. Tu pensa, l'altra cosa che a me colpisce molto è che si investe moltissimo nella cura e pochissimo nella prevenzione. Cioè nel senso, le persone certo, non vogliono essere malate, non è che vogliono ammalarsi e poi essere curarsi. Però perché la prevenzione vera ora è la diagnosi precoce. Uh-huh. Non è la prevenzione vera è un'altra cosa. È un'altra cosa. Ti rincoglioniscono di esami che devi andare a pagare, esatto, ti fanno terrorismo. Massimo, senti, dobbiamo seguire il traffico. Rimani ancora con noi? Sì, posso dire solo una cosa, un secondo solo? Concordo, intanto piacere mio, anche se solo te, concordo, il momento è epocale. Per la prima volta noi prima eravamo visti come quelli da internare nei manicomi e adesso ci chiamano all'università per fare i corsi, esatto, perché le giovani generazioni vogliono la tecnologia avanzata, vogliono quello, non vogliono la dissezione della rana o l'iniezione del topo. La medicina del cadavere, la medicina del vetrino è finita. Bene, fantastico, grazie ai giovani. Allora al traffico e poi continuiamo le chiacchiere con Mara e Massimo. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Allora, eravamo in linea con Massimo che sta facendo un viaggio della speranza, io direi. Sta salvando dei conigli tolti da un laboratorio e li stai portando a vivere la loro vita sereni in un ambiente veramente che gli spetta. Massimo, intanto grazie della chiacchiera con noi. Grazie a voi. Solo una cosa ti voglio chiedere, l'ultima cosa, ma esiste un paese oggi che già non usa, nel mondo intendo, che già non usa più la sperimentazione animale e che già sta usando solo ed esclusivamente le tecniche innovative di cui ci stavi parlando? No, ed è impossibile, in quanto uno degli ostacoli maggiori è legislativo, in quanto esistono delle leggi di commercializzazione e di globalizzazione delle merci, mm-hmm, che impongono la sperimentazione animale. Ma vabbè, speriamo. Quindi lì dobbiamo lavorare a livello legislativo e a livello internazionale, come minimo europeo, perché non è possibile ottenere un divieto solo a livello nazionale. Senti Massimo, prima di lasciarti andare a casa, se una persona ci ha ascoltato e dice voglio fare qualcosa, non è possibile continuare così, che cosa può fare? Allora, io divido la mia risposta in due. Da da una parte abbiamo bisogno di specialisti, e gli specialisti non devono essere solo da un punto di vista scientifico, perché come avete capito il problema è anche giuridico, è economico, è sociale, quindi qualsiasi persona abbia una preparazione specifica è ben accetta e può mettere a servizio del volontariato la sua specializzazione, ma ad esempio come veterinaria ha una marcia in più rispetto a un attivista non specializzato. Certo. Quindi cosa deve fare? Contattarvi? L'attivista può innanzitutto, prima cosa che vuol fare una persona è cambiare le proprie scelte alimentari. Ok. Perché la coerenza è una questione di coerenza. Se volete aiutare animali, la prima cosa è non ammazzarli, è un principio di base. Quindi già cambiando quello che una persona mangia, sta già facendo una rivoluzione che va al di là della propria persona. E sui farmaci che deve fare? Economico. I farmaci, purtroppo, essendo tutti vincolatamente testati su animali, il suggerimento è io sono un chimico di formazione, ho studiato chimica, conosco la chimica, quindi usate meno chimica possibile solo quando strettamente necessario. Okay. E nel caso di un farmaco dove c'è un equivalente generico, il farmaco generico non è testato su animali. Ah, perfetto. Quindi in alcuni casi c'è la scelta, ma la scelta a priori, meno chimica possibile solo quando rigorosamente necessario per tutelare la propria salute, farmaco, in quanto non c'è altro farmaco metodo. Generico. Grazie Massimo. Dottor Massimo, ti chiameremo altre volte per fare altre chiacchiere con te. Grazie di essere stato con noi. Ciao Massimo. L'ospitalità, grazie mille. Ciao. Sai che a volte si scambia la cura con la soppressione del sintomo, cioè prendo la pillola perché mi passi il mal di testa e in realtà stai sopprimendo un sintomo, non stai curando. Sì, infatti c'è questa. Come quando ti prendi l'antipiretico per abbassare la temperatura, in realtà hai bisogno della temperatura alta per ammazzare i batteri. Giusto? Vabbè. È il dilemma della medicina moderna. Ecco. Difatti erano molto più bravi una volta alla fine. È per quello che tanti si spostano su altri tipi di medicine. Vedi, allora siamo ancora con la dottoressa Mara Di Noia, che è un'esperta di alimentazione vegan sia per esseri umani che per animali. E quindi sull'animale, sul cane, no? Sì. A me viene già spontanea questa domanda. Sì. No? Io nutro il mio cane con la carne. E però mi chiedo, ma è giusto per il suo apparato fisiologico? Intestino corto, i canini pronunciati. Sì, questo è quello che preoccupa la maggior parte delle persone cinofile che io conosco, no? Soprattutto in ambito cinofilo mi trovo a discutere di questo argomento. Allora, da tante chiacchierate, da tante riflessioni che abbiamo fatto noi specialisti, ma anche in altri ambiti, posto che è una scelta e quindi qualsiasi tipo di scelta documentata e diciamo validata anche dal punto di vista scientifico non è discutibile, se è documentata dal punto di vista scientifico, posto che è una scelta, la possibilità c'è, perché ormai diciamo abbiamo noi veterinari, purtroppo sbagliando, per tanti anni consigliato ai proprietari di alimentare i propri animali con il cibo industriale. Questo l'abbiamo fatto di errore, quando il cibo industriale doveva essere, diciamo, il cibo di scorta, il cibo dell'emergenza. Sì. Abbiamo delegato all'industria dei mangimi l'alimentazione del nostro cane, creando dei danni. Quindi molti veterinari si sono resi conto che quel tipo di alimentazione non è adatto, pur essendo a base carnea. È nata quindi l'esigenza da parte di alcuni professionisti, ma anche da parte di alcuni proprietari, di capire se c'era un'alternativa. La necessità di un'alternativa è molto forte nelle persone che hanno fatto un cambiamento alimentare. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, perché a un certo punto compravo il tacchino per Pepita, che è il mio Westie, è il mio alter ego canino più che un cane, e cucinavo vegan per tutta la famiglia. A un certo punto era una domenica a pranzo, io ho detto, ma questa cosa qui non ha senso. Cucino vegan per me, però poi però scaldo compro il la carne per Pepita. Cioè, che lo stesso quesito. Lo vive anche Rosita. Ma è un'immagine che io non dimenticherò mai, perché io in quel momento, senza molto pensare, ho preso le crocchette di ceci che stavo preparando per Margherita e Angelica, le ho messe nella ciotola di Pepita insieme a del riso che avevo stracotto, delle verdure. Pepita ha capito che io stavo preparando per lei e ha sentito il tintinio di questa ciotola, e io racconto sempre perché è vero, ha iniziato a correre verso la lavanderia dove lei mangia. Da allora noi mangiamo tutti le stesse cose. Compresa Pepita. Compresa Pepita, che anzi, se poi si trova a mangiare delle altre cose, magari del cibo vegetale industriale, non apprezza per niente. Vabbè, lei ha anche, 14 anni, quindi insomma, ha una certa età. Quindi scusami, ceci per un cane? Crocchette di ceci che io faccio semplicemente frullando dei ceci con pochissimi altri ingredienti, tipo un cucchiaio di amido di mais per far stare insieme la preparazione, poi li passo in forno o in padella senza olio. La mia alimentazione è molto sana, però, nel senso che bisogna fare attenzione ad alcune cose, cioè quindi bisogna considerare il cane come un bambino piccolo, certo. Quindi attenzione ai condimenti, attenzione al sale. Se io e mio marito mangiamo un cibo fritto, a loro, nel senso le mie gemelle e il cane, non mangeranno il fritto. Cioè un'attenzione alle spezie, ad esempio, ad alcuni cibi che il cane non deve mangiare. Quello che però, e io ho fatto anche dei corsi per delle famiglie che desiderano imparare a cucinare un po' per tutti. Io allora ti corso. Farò sapere quando sarà il prossimo. Sì. È che è molto semplice, e soprattutto visto che il mondo scientifico ci dice: una volta ingerita, la proteina animale e la proteina vegetale sono indistinguibili dall'organismo, sia animale che umano. All'organismo interessano gli aminoacidi, di non cui la proteina. Non interessa tu pensa, la avevo... proteina. Questa è una cosa che voglio chiarire, perché quella sera che tu sei intervenuta alla 7, no? Sì. Ecco, io mi ricordo la discussione con una ragazza che diceva no, ma tu hai necessità delle proteine animali perché solo le proteine animali sono complete, e lei diceva è scientificamente provato. Ormai la scienza ci dice esatto. Non solo che sono equivalenti, non solo questo, ma ti dirò di più. La proteina vegetale è in grado di dialogare con il nostro codice genetico e presumibilmente col codice genetico di altre specie animali in modo positivo. Ciò vuol dire che la proteina animale è in grado di attivare dei geni che portano a malattia, e questo è scientificamente provato, che la proteina vegetale dialoga in modo positivo col codice genetico. E questo è un campo interessantissimo. Allora, visto che oramai non abbiamo più tempo, però Mara assolutamente di noia resta con noi, anche verrà con noi anche domenica prossima, vero? Certamente. Ti invitiamo già. Così ci dirà magari anche qualche ricetta. Io ricordo la nostra mail: chiedimi se sono felice @radio24.it. Scriveteci, perché adesso si inizia anche a fare proprio le ricette vegane per evviva. I cani, che mi papperò pure io. Certamente. Grazie Mara. Alla prossima, buona grazie domenica a tutti. Ciao, da Rosetta Celentano e Angelo Vaira. Ciao. Ciao a tutti.